Gatta. Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.09 e 17 secondi, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, questa sera straordinariamente al comando di Focus Economia. Capita ogni tanto, questa sera facciamo la sostituzione della sostituzione, quindi salutiamo Sebastiano Barisoni e Simone Spezia che questa sera mi hanno lasciato condurre appunto il programma della giornata che ci racconta i principali temi economico-finanziari. È un venerdì decisamente ricco di notizie. Per quello che riguarda la borsa, il Focus è tutto concentrato sulle numerosissime trimestrali che sono in corso di diffusione e ce n'è oggi una particolarmente pesante che fa particolarmente male a Piazza Affari, è quella di Leonardo Finmeccanica, che viene accolta dagli operatori finanziari, dagli investitori con questo meno 21% in borsa, naturalmente una prestazione che condiziona al ribasso l'intera Milano, che tutto sommato tiene perché perde lo 0,3%. E anzi va anche meglio delle altre piazze europee che perdono circa mezzo punto percentuale. Per Leonardo Finmeccanica qualche problemuccio lo crea la divisione elicotteri, avremo modo di parlarne nel corso della trasmissione analizzando un po' meglio i dati di questa trimestrale che è stata decisamente penalizzante per appunto la società. Vanno meglio STM, Italgas e Generali, sono in rialzo tra il punto e mezzo e i due punti percentuali. Molte le società che hanno rassegnato i conti in Italia, in tutta Europa e anche a Wall Street, ma in particolar modo il focus è sull'Europa. In questi giorni avremo modo di ragionarci nel corso del nostro approfondimento sulla seduta sul mercato finanziario. Peraltro va segnalato oggi che per quello che riguarda il mercato italiano, il Tesoro ha collocato 5 miliardi e mezzo di bot annuali e abbiamo avuto ancora una volta l'ennesima asta che ha registrato rendimenti negativi su questa scadenza appunto ad un anno, ma non solo è l'ennesimo rendimento negativo, ma abbiamo toccato un nuovo record verso il basso, lo 0,395%, e questo è la vigilia della emissione importante che arriva lunedì prossimo del nuovo BTP Italia. Anche di questo parleremo nel corso della trasmissione. Questo per quello che riguarda i mercati finanziari. Per quello che riguarda invece le vicende macroeconomiche, partiremo oggi, intanto vi racconteremo un po' come si è chiuso il nuovo round negoziale appunto fra la Gran Bretagna di Theresa May e l'Europa per l'uscita, per il completamento di questo divorzio. Vi racconteremo che cosa è stato detto oggi a Roma, dove è stato firmato il decreto per la strategia energetica nazionale, un piano che prevede nel complesso ben 175 miliardi dedicati alla crescita sostenibile, quindi arrivano delle buone notizie per quello che riguarda il nostro paese. Al centro di un pacchetto di investimenti evidentemente molto importanti, cercheremo di capire come si articolerà la distribuzione appunto anche di queste risorse, che cosa vuol dire elaborare e predisporre una strategia energetica nazionale. Torneremo naturalmente sull'affare banche in Italia, come sapete siamo all'indomani delle chiamiamolo così deposizioni, testimonianze, audizioni davanti alla commissione inchiesta appunto sulle banche, anche guidata da Pier Ferdinando Casini, dei responsabili della vigilanza di Banca d'Italia e del direttore generale della Consob, che avrebbero dovuto in realtà confrontarsi in un confronto all'americana ieri per stabilire effettivamente chi aveva mancato in termini di vigilanza sulla crisi soprattutto delle venete. Alla fine ieri questo confronto all'americana non c'è stato, c'è stato solamente un rimpallo di responsabilità: tu lo sapevi, anche tu lo sapevi, tu non hai fatto, anche tu non hai fatto, e il tutto naturalmente mentre tutto ciò si consuma anche parallelamente ad un dibattito politico e molti giornali stamattina richiamano anche la possibilità che il tutto abbia l'obiettivo di arrivare a Mario Draghi. Poi ne parleremo con il nostro Davide Colombo appunto da Roma. Quindi anche di questo ritorneremo a fare un punto, parleremo anche di petrolio, della crisi venezuelana e di tanti altri argomenti ancora. Naturalmente se volete commentare con me i fatti del giorno potete farlo con la consueta modalità, che è quella di scriverci al 349-238-6666. Naturalmente so che apprezzate adesso particolarmente girarci dei messaggi su WhatsApp, per cui io vi aspetto. Intanto possiamo partire con le notizie in breve. Credo che ci sia anche per Focus Economia la diretta Facebook, è vero, io sono abituata a stare nella prima parte della giornata, ma quindi se volete collegarvi anche sul nostro social network siamo anche lì e quindi potete vedermi. Sono vestita come stamattina, per cui sono stata sempre qua, abbiamo fatto pochi cambiamenti. Allora, la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. Pensate in che maniera perentoria la Premier Theresa May ha messo nero su bianco giorno e ora della Brexit con un emendamento alla legge che ha stabilito appunto proprio il divorzio dall'Unione Europea. Il primo ministro britannico ha spiegato la sua decisione oggi in un intervento sul Daily Telegraph in cui ha affermato che non intende tollerare alcun tentativo di bloccare l'uscita dall'Unione, e tutte queste dichiarazioni sono state rilasciate proprio nella giornata in cui si è svolto il sesto round negoziale sulla Brexit a Bruxelles, e un round che può essere riassunto in alcuni termini precisi, un round che si è consumato tra il team del britannico David Davis e il capo negoziatore europeo Michel Barnier. Sarebbe stato fatto un passo avanti, secondo quanto hanno ricostruito le agenzie, sui diritti dei cittadini, due passi indietro sulla questione irlandese, tutto ancora bloccato sulle questioni finanziarie e il rischio concreto che neanche al Consiglio europeo di metà dicembre i 27 dell'Unione europea possano considerare sufficienti i progressi su queste tre questioni chiave del divorzio fra Londra e la UE. E quindi questi sono ancora un po' in problemi in piedi, nonostante l'insistenza di entrambi i capi negoziatori durante una conferenza stampa congiunta sul fatto che ci sono e continuano ad essere dei progressi dal punto di vista tecnico su chiarificazioni e approfondimenti. In realtà le prospettive non lascerebbero molto spazio all'ottimismo, quindi ancora tutto piuttosto complicato, nonostante appunto la Theresa May, come vi dicevo prima, abbia indicato giorno, mese, anno e persino ora dell'uscita definitiva della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Altre questioni sempre che oggi hanno animato la giornata a Bruxelles: come richiesto dall'Ecofin a luglio scorso, la Commissione europea ha lanciato oggi una consultazione pubblica sui livelli minimi di capitale che le banche europee devono accantonare per coprire le perdite attese dei nuovi crediti concessi che potrebbero diventare deteriorati. Bruxelles chiede agli attori coinvolti un parere sull'introduzione di nuovi requisiti che metterebbero un freno ai nuovi NPL, cioè i non performing loans, i crediti proprio inesigibili, assicurando coperture sufficienti, e Bruxelles ha anche sollecitato input mirati su come disegnarli al meglio. Queste dichiarazioni emergono, come sapete, proprio nella settimana in cui si è consumato questo, chiamiamolo così, scontro a distanza fra il Parlamento europeo e la BCE, che proprio di recente ha rifissato nuovi paletti più alti, più stringenti, più rigidi proprio nei confronti delle banche, che la BCE dice devono mettere da parte molto capitale per fronteggiare un'eventuale nuova crisi in futuro da crediti deteriorati. Andiamo alle vicende italiane, qualche dato importante che è stato diffuso oggi. Allora, intanto, ve lo dicevo prima, il Tesoro ha collocato 5 miliardi e mezzo di euro di bot ad un anno e i tassi sono scesi al nuovo minimo storico. Il rendimento è stato dello 0,395%, dallo 0,3340% del collocamento di ottobre. Siamo a qualcosa come 24-25 aste consecutive con rendimenti negativi. La domanda però è stata decisamente forte, pensate che ha superato i 13 miliardi e mezzo di euro. A settembre 2017, dopo 4 mesi di continua crescita, si è interrotta la risalita della produzione industriale italiana, che ha registrato invece una diminuzione dell'1,3% rispetto ad agosto, anche se c'è stato un aumento del 2,4% rispetto al settembre dello scorso anno. L'Istat ha detto che la crescita tendenziale prosegue da febbraio 2017 e che in media nei primi 9 mesi dell'anno sarebbe aumentata di circa il 2,9%. L'indice mensile della produzione industriale cresce per il settore beni di consumo, diminuisce invece per i raggruppamenti dell'energia, i beni intermedi e quelli strumentali. Intanto cresce in Italia il numero delle piccole e medie imprese che ora sono anche più solide, con un aumento che è stato definito considerevole degli investimenti. Questo emerge dal rapporto CERVED PMI 2017 che è stato presentato oggi a Milano. Il rapporto mostra che si è rafforzato e ha preso slancio l'aumento del numero delle PMI grazie soprattutto alla crescita registrata dalle microimprese. Se nel 2015 si era verificata una prima inversione di tendenza, nel 2016 si è osservato un nuovo ulteriore incremento. Sono oltre 5.000 le nuove imprese, un aumento robusto che porta il totale delle PMI a quota 145.000 unità. Piccole e medie imprese che però hanno una lamentela molto chiara, che stanno facendo da un bel po' di tempo, noi ce ne siamo occupati in tante trasmissioni: non trovano forza lavoro disponibile, soprattutto naturalmente su determinate posizioni. Oggi Confindustria ha lanciato di nuovo questo allarme: oltre un quinto delle nostre associate, delle nostre imprese, non riesce a trovare i profili professionali di cui ha bisogno. L'Italia soffre di questo fenomeno che si chiama mismatch fra le scelte formative dei giovani e i fabbisogni delle imprese, nonostante un tasso di disoccupazione giovanile che è ancora molto alto, siamo intorno al 35%. Il vicepresidente di Confindustria per il capitale umano, Giovanni Brugnoli, alla 24esima giornata nazionale Orienta Giovani, ha sottolineato che le imprese nei prossimi 5 anni avranno bisogno di migliaia di superperiti da assumere in tutti i settori. Lo sentiamo al microfono della nostra Maria Piera Ceci. Sì, abbiamo voluto porre l'attenzione proprio sugli ITS, che sono quelle scuole che fanno e formano i super periti, perché è un percorso post diploma, diciamo di scuola superiore, e proprio forma quegli super periti che trovano piena occupazione. È evidente che stiamo parlando ancora di numeri sottili rispetto al nostro competitor tedesco, perché in Italia sono circa 8.500 le persone che frequentano gli ITS contro i 900.000 delle facoscule tedesche, a pari numero di iscritti all'università, 1.750.000 i tedeschi contro 1.670.000 italiani. Quindi a noi manca quella fascia di super periti, super tecnici, che sono quelle figure che proprio le nostre imprese manifatturiere richiedono. E quindi noi lanciamo questo appello di orientarsi a una formazione che crei una propria occupabilità. Tema molto interessante quello del famoso mismatch. Noi nel passato palinsesto, quello che è terminato a luglio con Nicoletta Carbone a Cuore e Denari, abbiamo fatto tante puntate che abbiamo ribattezzato Chi cerca non trova, e cioè aziende con posizioni aperte, giovani che cercano lavoro, ma cioè, insomma, domanda e offerta che fanno fatica ad incontrarsi, un tema sul quale dovremo sempre di più tornare. Non c'entra nulla con il tema che andiamo ad approfondire adesso, ma chissà che anche nel settore energetico non si aprano, grazie a questo super piano di investimenti che il governo sta predisponendo, delle opportunità professionali. Cosa è successo oggi a Roma? Che è stato firmato il decreto per la strategia energetica nazionale. È un piano che prevede nel complesso 175 miliardi di euro dedicati alla crescita sostenibile. Il provvedimento è stato sottoscritto dai ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Come sono distribuiti questi 175 miliardi? 30 per reti e infrastrutture di gas ed elettrico, 35 per fonti rinnovabili, 110 per l'efficienza energetica. La strategia propone anche una forte accelerazione, anzi principalmente una forte accelerazione dell'uscita completa dal carbone negli impianti termoelettrici entro il 2025 e traccia la strada verso la decarbonizzazione totale per raggiungere, rispetto agli anni 90, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050. Vi farò sentire tra poco le dichiarazioni del Premier Gentiloni e dei ministri Calenda e Galletti, e le farò sentire anche al nostro ospite con cui commentiamo tutto questo, il professor Carlo Scarpa, docente di economia politica all'Università di Brescia, oltre che tra i vari animatori del sito lavoce.info. Professore, buonasera e grazie. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io le faccio sentire le dichiarazioni che arrivano da Roma, dagli esponenti appunto del governo, poi con lei andremo a spiegare invece ai nostri ascoltatori che non masticano questi argomenti come si concretizzerà, secondo quello che abbiamo potuto capire, questo piano e se sarà in grado, anche visto che molti continuano ad auspicare per una vera ripresa economica del nostro paese, chiedono che lo Stato intervenga con appunto investimenti pubblici. Siamo alla svolta, insomma anche questo potrà essere un tema di partenza importante per il lanciare il nostro paese. Cominciamo intanto a sentire cosa ha detto il Premier Paolo Gentiloni. Oggi è evidente che c'è una coincidenza e che quindi lavorare per la sostenibilità ambientale non è soltanto, e certamente lo è, un impegno per le prossime generazioni. Ne abbiamo parlato molto in questi mesi a proposito degli accordi sul clima. La presidenza italiana del G7, nelle sue diverse articolazioni, ha lavorato molto per difendere gli accordi di Parigi sul clima, ma lo facciamo, oltre che pensando al futuro del pianeta, alle prossime generazioni, lo facciamo pensando alla competitività del nostro sistema industriale oggi, una competitività rispetto alla quale l'Italia ha tante carte da giocare, dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista anche delle capacità di gestire in modo efficiente le reti energetiche. Abbiamo tanti asset nelle nostre mani. Gli obiettivi, come vedrete, sono ambiziosi: portare le rinnovabili al 28% nei consumi totali entro il 2030, al 55% nei consumi elettrici, arrivare a carbone zero nel 2025 nella produzione di energia elettrica, farlo coinvolgendo i cittadini e anche utilizzando i meccanismi di incentivo che abbiamo confermato nella legge di bilancio e in parte anche allargato, come sapete, a proposito del verde privato. E penso che nei prossimi 10-15 anni, grazie a questa strategia che oggi presentiamo, l'Italia potrà essere un paese più sano e più competitivo. La parola competitività, come avete sentito, è quella su cui punta il Premier Gentiloni, mentre al Ministro Calenda è stato affidato il compito di spiegare nel dettaglio come si articoleranno questi investimenti, questo pacchetto di investimenti da 175 miliardi. Allora sentiamolo. L'obiettivo è quello di ridurre, la SEN lo prevede nel 2030, la dipendenza energetica del Paese, che come voi sapete è uno dei talloni d'Achille dell'Italia e che si andrà a ridurre in maniera strutturale, ma ancora di più con gli interventi della SEN, e che consente a noi non solo di poter gestire la transizione energetica, ma di gestirla in sicurezza in un momento in cui le variabili geopolitiche aumentano in modo significativo. Quindi fonti rinnovabili ed efficienza per ridurre la dipendenza dall'estero, gli investimenti nella rete, come dicevo prima, i mercati integrati con l'Europa, il mercato della capacità che siamo pronti a lanciare. Stiamo aspettando l'ultimo passaggio su Bruxelles, perché la dismissione di capacità di produttiva nell'elettrico è stata una dismissione potente negli anni scorsi e ci mette in una situazione di cautela, non di rischio ma di cautela. La gestione più efficiente dei flussi e dei punti di domanda dei gas e la diversificazione delle fonti di cui ho parlato prima. Cosa vuol dire in termini di investimenti la SEN? La SEN prevede un totale di investimenti al 2030 di 175 miliardi, divisi, come voi vedete, tra reti, infrastrutture, fonti rinnovabili e efficienza energetica. Io qui credo che vada sottolineato un fatto. La SEN, la Strategia Energetica Nazionale, è, insieme al Piano Industria 4.0, uno dei due grandissimi assi di sviluppo industriale, di politica industriale che noi vediamo nei prossimi anni. Noi abbiamo oggi certamente la politica ambientale ed energetica che va attraverso una rivoluzione che è paragonabile a quella che sta facendo l'industria manifatturiera. Quindi Industria 4.0, Piano straordinario Made in Italy per l'internazionalizzazione e strategia energetica nazionale sono le tre punte su cui noi giochiamo in attacco e sulle quali ci giochiamo per i prossimi anni, lo sviluppo economico del paese. Allora, professor Scarpa, nel caso lei avesse perso la conferenza stampa stamattina, gliel'abbiamo fatta riascoltare quasi integralmente. Allora, può spiegare alle persone che non masticano questi argomenti come me, lei deve fare proprio il professore universitario e far finta di essere di fronte ai suoi studenti all'università, che cos'è una strategia energetica nazionale, soprattutto perché l'Italia la presenta in questo momento? Mi vengono in mente... È una bellissima domanda. Il tema è che in questi giorni continuano a dirci molti osservatori internazionali, dalla Commissione Europea al Fondo Monetario Internazionale, che stiamo riprendendo a crescere in maniera anche più significativa rispetto alle previsioni precedenti, ma continuiamo ad essere fanalino di coda della crescita di tutte le economie, appunto, mondiali. Quindi è importante che ci si sbrighi a mettere in campo investimenti pubblici per ritornare a decollare. Poi andremo, anche se ritiene, a un commento da parte sua su quelli che pensa siano i punti più qualificanti di questo piano. Allora, ultimamente lo trovo francamente un po' bizzarro, nel senso che questi sono discorsi che secondo me hanno un senso preciso a inizio legislatura da parte di un governo che ha davanti a sé 5 anni nei quali dice voglio fare questi investimenti e poi traguardo questi investimenti, sono di fronte di 15 anni sperando che i miei successori vorranno seguire le mie tracce. Detto da un governo che ha forse 5 mesi davanti a sé, francamente mi sembra un po' velleitario, però capisco che vogliono lasciare un segno, è un segno politico, all'atto pratico non sarà certo questo governo che potrà veramente mettere in campo questi investimenti, anche perché si parla di investimenti da qui al 2030 e l'orizzonte temporale è chiaramente incompatibile. D'altronde, professor Scarpa, se nessuno fa mai niente e se, come dire, l'orizzonte temporale è sempre quello politico, no? Qua d'altronde siamo precari un po' politicamente da tempo, devo dire che forse senza essere maliziosi, Calenda è un ministro di quelli che si è sempre dato da fare, forse non guardando tanto alle tematiche politiche. Certo, dovrà farlo pure lui, però insomma mi ci sembra uno di quelli un pochino più concreti rispetto a tanti altri. Chiusa parentesi, questa è un'opinione personale, però lei dice giustamente, carità, si va a votare a marzo, adesso mi presenti questo piano, però sempre meglio che rimandarlo, perché poi avanti che si rimette in piedi un altro governo, questo piano rischiava di essere presentato solamente fra un anno almeno, professore. In realtà si noti che l'ultima scena era di neanche 5 anni fa, per cui si trattava di dare attuazione a era stato fatto a inizio legislatura. Farne due all'interno della stessa legislatura mi sembra un po' tirato, però vabbè, è comunque un documento interessante, anche perché poi storicamente queste cose normalmente vengono prese seriamente in qualche misura da chi segue, le linee tracciate sono rilevanti. Su rete e infrastrutture francamente forse non tantissimo, nel senso che si tratta di tanti piccoli interventi, se vogliamo, di miglioramento delle reti del nostro paese, ma non credo che stiamo parlando di uno sconvolgimento di nulla. Sono tanti piccoli interventi che però messi assieme cubano sicuramente tanti soldi. No, tra l'altro poi sul tema infrastrutturale è importante ricordare che una parola finale dovranno metterla regioni e comuni, per cui poi lì bisognerà vedere se si complicheranno un po' le situazioni laddove gli enti locali hanno anche un'importante voce in capitolo, no, per concretizzare e poi dare attuazione. Ahimè, sicuramente questo è vero, però voglio dire, questo è fisiologico. È più interessante il resto. E francamente però è chiaro che da una presentazione di 20 slide spiegare come saranno investiti 170 miliardi ovviamente non è facile. È interessante, io francamente lo trovo un po' discutibile il fatto che si punti tantissimo sugli incentivi all'efficienza energetica. 110 miliardi da qui al 2030 vuol dire mai contati 10 miliardi all'anno di bolletta dell'efficienza energetica. E che fare efficienza sia così costoso è in sé un po' una contraddizione nei termini. Mi conforta leggere da qualche parte che c'è scritto che si vuole in qualche modo rivedere l'attuale sistema di incentivi, che è oggettivamente molto molto molto generoso, E vedremo però come all'atto pratico questo sarà fatto. Penso ad esempio agli incentivi fiscali per le riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio, ad esempio, quello che sono sempre stati molto generosi negli ultimi anni. Esattamente, questi sono stati veramente molto fino generosi, al 65%, poi in modo molto indiscriminato, mentre secondo me sarebbe veramente importante, e spero che sia quello che hanno in mente, avere un piano importante di qualificazione del patrimonio dell'edilizia pubblica, per due ragioni: sia perché negli anni passati la pubblica amministrazione è stata la grande assente da tutto questo efficientamento energetico, i privati l'hanno fatto, le industrie l'hanno fatto, la pubblica amministrazione è sempre stata assente, per cui se ci sono quattrini per questo ben vengano. E poi attenzione, perché se parliamo di case popolari, parliamo di case costruite negli anni 60-70 magari, o anche prima, con dei criteri energetici assolutamente inguardabili con gli occhi di oggi, che avrebbero grande bisogno di questo, e dove risiedono delle persone che hanno un reddito mediamente molto basso e che finiscono per pagare, proprio perché quelle case sono inefficienti, delle bollette elettriche e del gas estremamente elevate. Quindi se colpisci questo, allora fai veramente un buon tipo di intervento. Per cui se questo è quello che hanno in mente, magari. Magari nei dettagli qualche elemento in più rispetto a questo ci sarà. Riduzione della dipendenza energetica del paese. Allora, io adesso dovrei andare in realtà in pausa, Valeria, se sei d'accordo. Chiedo poi al professor Scarpa di rimanere ancora un istante. I punti da affrontare sarebbero veramente molti, però gli vorrei chiedere, sentendo poi un passaggio del ministro dell'Ambiente Galletti, un commento rispetto alla questione dell'arrivo di possibili 5-9 milioni di auto elettriche che entro il 2030 nel nostro paese, e insomma anche questa è una bella sfida. Fra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Avevo chiesto un minutino di pazienza, so che vado sopra le sigle, non si dovrebbe fare, sopra la nostra colonna sonora, ma siccome ho chiesto ancora un minuto di contributo al professor Carlo Scarpa per commentare insieme la strategia energetica nazionale che è stata presentata questa mattina dal ministro Calenda. L'abbiamo già detto prima, su quello che sappiamo fino a questo momento, 175 miliardi di investimenti da qui al 2030 per rendere il nostro paese più competitivo e per ridurre la dipendenza energetica appunto dell'Italia. C'è un altro passaggio interessante che è stato fatto dal ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, per quello che riguarda l'obiettivo di, come dire, rinfrescare il parco auto italiano. Valeria, sentiamo cosa ha detto Galletti. Per quanto riguarda la percentuale sui consumi elettrici, passeremo al 38% di tendenziale, con le politiche che abbiamo individuato arriviamo al 55%. Per farvi un esempio, sull'elettrico influisce molto ad esempio l'uso delle macchine elettriche. Per arrivare a questo 55%, le macchine previste al 2030 elettriche sono quasi 5 milioni. Quindi è chiaro che le policy che dovremmo mettere in campo di sostegno a quella filiera e più in generale a tutta la filiera DAFI, cioè tutte quei carburanti che ci permettono di risparmiare CO2 e di risparmiare e di andare verso l'elettrificazione, dovremmo trovarli e metterli proprio nella strategia del clima ed energia. Sull'efficienza energetica siamo altrettanto virtuosi. Allora, professor Scarpa, quando ho letto questo obiettivo del ministro Galletti, quello di svecchiare il parco auto circolante attraverso l'introduzione eventualmente di incentivi fiscali per consentire agli italiani di acquistare almeno 5 milioni di auto elettriche entro il 2030, pensavo a quello che è successo nel mercato dell'auto negli ultimi anni, con le immatricolazioni che hanno ripreso a correre come non si era mai visto da tempo. E adesso che gli italiani si sono comprati tutti l'auto nuova, parte un nuovo pacchetto di incentivi per rinnovare di nuovo questo parco auto. Adesso non so se la mia è una considerazione folcloristica, però mettiamoci insieme anche questo: non è che gli italiani ogni 2x3 possono comprare l'auto nuova, ma lei che ne pensa di questa iniziativa eventuale? Mi vengono in mente i decoder digitali delle televisioni. Finito lo switch off 1, abbiamo il digitale terrestre 2.0, infatti. Esatto. Ma il problema secondo me è un altro. Allora, Intendiamoci su cosa vogliamo dire. Se intendiamo dire incentivi alle auto ibride, ben vengano, molto molto favorevole. Le auto interamente elettriche, cioè quelle che richiedono una ricarica elettrica, hanno bisogno anche di infrastrutture enormi, al di là del costo di queste infrastrutture. Esatto, i vari punti di ricarica che nel nostro paese... territorio all'interno dei centri urbani dovrebbero prendere queste colonnine? Allora, colonne di ricarica rapida a Milano oggi penso che ce ne siano alcune decine, 50 forse, esageriamo 100, non credo che ci siano. Se vogliamo avere 5 milioni di auto elettriche, veramente elettriche in Italia, a occhio e croce immagino che più di mezzo milione, diciamo un milione grosso modo, potrebbero finire a Milano. Ah. E quindi diciamo quanti? 100.000 punti di ricarica. Uno lei se la ride, auto. Però insomma magari perché no? Perché la vede in maniera... Dove mettiamo? Dove? Cioè, non è solo un problema di costi, è un problema di organizzazione delle nostre città e di capire dove possono effettivamente essere, se abbiamo delle infrastrutture, ovvero se abbiamo un'infrastrutturazione della città che ci consenta di collocare, di occupare lo spazio urbano in questo modo. Attenzione, perché le auto elettriche di oggi sono delle bellissime cose, ma non sono certissimo che questo paese debba investire così tanto su questo tipo di auto. Durano poco, la ricarica è ancora un problema. Esatto, sì, tragitti, attenzione non si a non fare. Saltare su una tecnologia che ancora forse non è abbastanza. Insomma, un piano ambizioso. In termini numerici, qualche incognita dal punto di vista di fattibilità e concettuale, gli esperti la evidenziano. Siamo curiosi proprio di vedere come implementeranno questo piano. Professor Scarpa, grazie per essere stato con noi. In un'altra occasione le chiederò che tipo di ricadute anche occupazionali in termini di PIL tutto questo potrebbe avere, perché devo dire che è una domanda che ci stanno facendo molti ascoltatori. Non abbiamo tempo oggi di affrontare anche questo aspetto, perché quando si parla di energia a 360 gradi non possiamo non interpellare la nostra Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che salutiamo, ci ha raggiunto velocemente in studio. Buonasera. Perché il tema del petrolio sta riaffacciandosi da qualche tempo a questa parte come tema all'ordine del giorno dell'attenzione degli investitori. Abbiamo visto una ripresa delle quotazioni, guardo adesso cosa sta succedendo sul Brent, il greggio dei mari del nord, siamo a $64 al barile, qualcosa di questo tipo. Adesso mi è sfuggita la grafica con il WTI, 64 qualcosa infatti, il WTI americano sarà 57. Sì. Allora, i temi che hanno movimentato le quotazioni in questi giorni arrivano da parti opposte del globo. Da una parte abbiamo la crisi venezuelana, che non so in realtà quella che riguarda un problema di ristrutturazione del debito ha a che fare con il petrolio, ma non ha poi a sua volta determinato una conseguenza sulle ricadute delle quotazioni attuali. Ma diciamo che è rimasta un po' sullo sfondo nei commenti degli analisti, perché ci sono molti altri temi in primo piano, però non è indifferente l'effetto che possa già aver avuto il Venezuela, perché negli ultimi 3 anni la produzione venezuelana è crollata. Certo. E non per i tagli OPEC, per tagli involontari dovuti a gestione sempre peggiore dei giacimenti della società PDVSA, e insomma si stima che più o meno abbia perso 800.000 barili al giorno negli ultimi 3 anni, cioè quindi... negli anni del crollo del petrolio. La crisi saudita invece, crisi, la purga saudita, chiamiamola come l'hanno ribattezzata molti colleghi in questi giorni, sì, quella sì che ha avuto invece effetto sulle quotazioni. La purga saudita sta aggiungendo un premio di rischio geopolitico, se vogliamo parlare come gli analisti, alle quotazioni del petrolio, che erano già in forte rialzo per motivi effettivamente legati ai fondamentali, perché dopo tanto tempo, dopo anni, dopo circa 3 anni di eccesso di petrolio sul mercato, adesso la situazione non è più questa, la domanda e i consumi stanno superando effettivamente in questo momento l'offerta grazie ai tagli OPEC, compresi quelli involontari tipo quelli venezuelani, ma anche quelli volontari che stavolta sono stati fatti davvero persino dalla Russia, che in passato aveva sempre promesso e poi non effettuato tagli o collaborazioni con l'OPEC, stavolta invece l'ha fatto, e per effetto di una domanda molto forte comunque, che anche frutto di anni di prezzi più bassi del petrolio. Adesso sentiremo strillare gli ascoltatori dire però io quando faccio il pieno costa sempre tanto, lo so, ma, noi abbiamo ma le ci sono le tasse accise, e le accise che lo dico subito. Per il 70% infatti quelle proprio lo non dico ci... subito, lo ripeto subito, ma è sempre bene ripeterlo. Vuoi mai rinunciare all'accisa sul Vajont? Esatto, no, anzi, esatto, ogni tanto ma anche la guerra nuova in Etiopia se vogliamo, per esatto. Cui esatto, quello comunque è un altro discorso. Venezuela quello e Arabia Saudita sono due signori che siedono intorno al tavolo OPEC e quindi pesano i loro movimenti. Sono due grossi produttori, sempre. Quindi la loro produzione effettivamente influisce, se diminuisce è un pezzo di produzione che viene via a fronte di domanda forte stimolata anche da prezzi più bassi. E poi ci sono altri paesi che stanno riducendo volontariamente la produzione nell'accordo tra OPEC e non OPEC, la Russia che ricordavamo prima, e altri punti caldi dal punto di vista geopolitico, perché c'è di nuovo il sentore che gli Stati Uniti possano sanzionare nuovamente l'Iran. L'Arabia Saudita, oltre alla purga interna degli avversari di questo ambiziosissimo e sempre più potente principe Mohammed bin Salman, sta anche cominciando a stuzzicarsi con l'Iran parecchio. È caduto un missile sull'aeroporto di Riyadh, un missile che veniva dallo Yemen, e l'Arabia Saudita ha accusato l'Iran di un atto di guerra. Ci sono i giochi politici in Libano, si sta di nuovo scaldando anche il Libano, che è sempre stato un po' terreno di scontro indiretto tra sauditi e iraniani. Il premier libico-libanese si è dimesso e se n'è andato in Arabia Saudita, e ci sono anche lì scontri diplomatici di questo tipo, e poi i mille altri focolai di tensione che sappiamo bene esserci in Medio Oriente, no? Il boicottaggio del Qatar, e per non parlare dei produttori petroliferi tutto africani, questo la si Libia, sta la riflettendo Niger. Adesso sulle quotazioni del prezzo del petrolio, sì. O non abbiamo già visto ancora visto tutto? Sì, abbastanza sta riflettendosi adesso, perché adesso il petrolio comunque è di nuovo in tensione dal punto di vista dei fondamentali. Fin quando c'era questo eccesso di petrolio pazzesco era meno sensibile il prezzo a eventuali rischi di tipo geopolitico, perché nella testa degli investitori, del mercato, di questa entità astratta del mercato, se c'è un sacco di petrolio, ma sì, ma chi se ne importa se ne perdiamo un po' perché in Libia si fa la guerra. Cinicamente il mercato ragiona così. Certo. Se il petrolio ce n'è meno di quanto consumiamo, beh, allora ogni singolo pozzo, ogni goccia di petrolio diventa più rilevante. Certamente, per gli equilibri. Preziosa. Quando è il prossimo tavolo OPEC? Il 30 di novembre, a fine mese. Che cosa è previsto che venga? Perché mi pare che una nuova riorganizzazione dei tetti produttivi non sia in programma. Detto no, questo, no, sono no. Sempre temi di cui si discute. È praticamente scontato, e il mercato l'ha già incorporato nei prezzi, quindi alcuni pensano che effettivamente potrebbe stornare il prezzo del petrolio, perché è difficile che ci sia una sorpresa. È praticamente scontato che prolungheranno ulteriormente il taglio di produzione che c'è in corso. Si sono pronunciati a favore di un prolungamento addirittura fino alla fine del 2018 sia Putin, il presidente russo, sia il potente saudita Mohammed bin Salman. A questo punto difficile che non li prolunghino, magari possono prendere ancora un po' di tempo. C'è la Russia che traccheggia, che dice no vabbè, ma non possiamo deciderlo adesso perché la scadenza del patto è a marzo, decidiamolo più a ridosso della scadenza, quindi potrebbero anche prendere un po' di tempo, però almeno per un po' andrà oltre marzo 2018. Certo. Senti, solamente per concludere, poi devo andare alle banche e siamo anche veramente stretti, anche se ci piacerebbe approfondire un po' di più queste dinamiche, perché poi sì, sembrano così distanti da noi, ma come dicevi tu giustamente alla fine, anche se è tutta colpa dei Platz, in realtà sul prezzo della benzina poi queste dinamiche si ripercuotono. Quanto ha a che fare la questione venezuelana, cioè che relazione c'è tra la crisi venezuelana, questo rischio default che il paese sta correndo da diverse settimane, che sembra essere sempre sull'orlo di essere dichiarato, e appunto la questione petrolifera, perché tutto deriva, sì, proprio dalla compagnia di Stato. Il Venezuela rischia default da anni in realtà, e adesso però sembra veramente che il cronometro ormai ha esaurito il tempo. Il Venezuela ha saltato diversi pagamenti di cedo sole ultimamente, sì. Anche due ultimamente che non avevano periodo di grazia, quindi non c'era tolleranza, poteva scattare anche il default subito. Sembra che i pagamenti non siano ancora stati fatti tutti, nonostante gli annunci. Se dovesse effettivamente essere chiamato un default vero, insomma, dovesse fallire la PDVSA, la compagnia petrolifera, mm-hmm. perché lei è la società emittente di questi ultimi bond, potrebbero esserci delle gravi ripercussioni, perché è una compagnia petrolifera, potrebbero essere sequestrati i carichi di petrolio a mare, asset petroliferi. Sono certa che lunedì ne parleremo di una novità o in un senso o in un altro. Siamo qua, grazie Sissi, a presto, il traffico è tardissimo, lo so. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Davide Colombo, ho fatto dei pasticci. Sono arrivata alla fine della prima parte del programma, devo rimandarti alla seconda. Ci sarai ancora? Va bene, io sono qua. Per raccontarci la nuova puntata dello scontro, tra virgolette, tra Consob e Banca d'Italia su chi ha la responsabilità, tra virgolette, per carità, niente di accertato, solo tutti i sospetti rispetto ai crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. A tra pochissimo, dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Soy el fuego que... Devo proprio mettere adesso il piede sull'acceleratore, perché ho ben 4 ospiti da distribuire da qui alle 18:28. Allora, intanto, per gli ascoltatori affezionati dell'appuntamento di fine giornata sui mercati finanziari, quantomeno dico che Milano chiude con un meno 0,36%. Sul dettaglio di Piazza Affari andremo tra poco con Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, non prima però di aver fatto il punto banche con Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, eccoci a te. Ciao Debora, eccoci qua. Allora, già ieri è stato detto tutto da Sebastiano Barisoni su Focus Economia rispetto a quelle audizioni che sono state fatte di fronte alla commissione d'inchiesta sulla situazione appunto bancaria, commissione guidata da Pier Ferdinando Casini, e come era noto dovevano essere ascoltati inizialmente in un faccia a faccia all'americana, che poi è stato deciso non si facesse più con questa modalità, da una parte Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza della Banca d'Italia, dall'altra Angelo Apponi, direttore generale di Consob. Allora, chi ha la responsabilità di non aver effettuato abbastanza controlli sulla situazione delle due venete, in particolar modo Pop Vicenza e Veneto Banca, si sono praticamente un po' accusati a vicenda, nel senso che Banca Italia dice: noi mandavamo a Consob tutte le segnalazioni del caso ed erano segnalazioni più che sufficienti a far scattare un allarme dell'altra autorità. Dall'altra parte Consob cosa dice? In realtà la documentazione che ci arrivava non era sufficiente a far scattare invece i nostri controlli. Ho proprio sintetizzato al massimo quello che è emerso ieri, Davide. Oggi i giornali che cosa aggiungono a tutto questo? E che tutto ciò vorrebbe arrivare anche ad insinuare che qualche responsabilità ci sia addosso a Mario Draghi. Adesso io la metto lì alla larga, però in realtà anche questa ricostruzione che fa Repubblica stamattina non è esattamente nuova. Adesso, non per sminuire ovviamente i lavori fatti da altri colleghi, però di questa tentazione di in qualche maniera chiamare in causa l'attuale numero uno della BCE pare che ci sia. Davide, tu che ne pensi delle ricostruzioni delle ultime ore? Dunque, come dicevi tu, effettivamente questa lettera, che è la segnalazione della vigilanza che nel 2009 indicava all'allora governatore della Banca d'Italia le irregolarità emerse dall'ispezione fatta a Vicenza, non è una novità. Scusa, stiamo parlando di Montepaschi. È una novità, nel senso che sono fatti noti. In qualche modo tirare in causa oggi Draghi non so che margini può avere. Intanto c'è un problema di statuto della Banca Centrale Europea che consente abbastanza difficilmente di convocare il Presidente per rispondere di una situazione che aveva gestito e affrontato quando era governatore di una banca dell'Eurosistema. Oggi va segnalato peraltro che l'intero Partito Democratico sta facendo una clamorosa retromarcia rispetto a questa ipotesi di mettere nel mirino il Presidente della Banca Centrale Europea. Ci sono svariate dichiarazioni di questo tipo. Che cosa è emerso ieri? L'hai detto bene tu, cioè una responsabilità condivisa fino a un certo punto dalle due autorità. La Banca d'Italia ha come missione quella di vigilare sulla stabilità del sistema bancario, quindi dei soggetti, degli intermediari, mentre l'altra, la Consob, stabilità del mercato finanziario, si deve occupare del mercato finanziario. È una vicenda a noi abbastanza nota e anche annosa, nel senso che un miglioramento dei rapporti tra le due autorità che abbia l'obiettivo di rafforzare la tutela dei risparmiatori, quindi una condivisione di ruoli, responsabilità, poteri sugli emittenti, evidentemente si può fare, forse si doveva fare, ma credo non sia esattamente questo il tema della commissione d'inchiesta. Basti dire che il prossimo obiettivo che si sono posti, esatto, i commissari di San Macuto, esatto, è quello di sentire martedì 21 i due PM milanesi, Giordano Baggio e Stefano Civardi, che rappresentano l'accusa in un processo in corso che ha per imputati principali Vigni e Mussari per, diciamo, ipotesi di reato che vanno dall'aggiotaggio al falso in bilancio all'ostacolo alla vigilanza, e che è un processo già in corso e che riguarda appunto i vertici di MPS che dal 2008 fino al 2012 circa hanno assunto una serie di responsabilità che li ha portati a questo processo. E c'è un'udienza preliminare che riguarda invece i successori di questi due presidenti e amministratori delegato, cioè Profumo e Viola, che invece sono coinvolti per la gestione dei derivati che erano rimasti nel bilancio, i derivati introdotti dai Mussari e Vigni, e che potrebbe esserci un processo vero e proprio e atteso a breve una decisione anche per questi due banchieri. Sì. Che cosa significa convocare oggi i due PM, esatto, e aprire di fatto il capitolo Monte dei Paschi in commissione d'inchiesta? A noi non è ancora chiaro. La commissione d'inchiesta si era data un criterio di lavoro cronologico, cioè partiamo dalle venete, poi a ritroso risaliamo alle altre crisi. Quindi teoricamente avrebbe dovuto affrontare la vicenda dell'Etruria, della Banca Marche, di Chieti e Ferrara. Invece si salta direttamente alla crisi di Monte Paschi, che come tu ben sai è una crisi che, diciamo, più o meno è iniziata tra il 2007 e il 2008 e poi si è trascinata fino al, esatto, salvataggio con intervento pubblico di questi ultimi mesi. È iniziata quando ha acquistato Banca Antonveneta. Davide, purtroppo non riusciamo ad andare oltre, ma tanto avremo modo anche la prossima settimana di fare di nuovo un punto della situazione, perché qua il tema è anche capire questi signori qua, visto ancora tutte le audizioni che devono fare, che tipo di lavoro intendono riuscire, come riusciranno a completare il loro lavoro, visto che siamo a ridosso ormai delle elezioni, siamo a ridosso di Natale, faranno ben poco e quindi devono veramente velocizzare tutte le operazioni per portare a casa un dossier che si dica completo ed esaustivo, soprattutto nei confronti dell'opinione pubblica che chiede di sapere che cosa sia successo. Ci risentiamo presto, Davide, grazie, a presto. Grazie a voi. Allora, sono le 18:14, intanto io Andrea Fontana lo saluto per non saperne leggere né scrivere. Buonasera, ciao Andrea. No, tra l'altro stavo pensando prima che poco fa Davide ha rinominato Alessandro Profumo, è proprio una brutta giornata per lui, eh? Che cosa dici? Sì, visto che guida Finmeccanica oggi. Sì, la performance di Finmeccanica di oggi è stata veramente da ricordare, purtroppo in negativo, ha perso oltre il 20%, 21,5%, sì. E il titolo si è così praticamente assorbito completamente i rialzi di quest'anno, tant'è che dall'inizio dell'anno praticamente il titolo è in negativo del 17%. Beh, allora questo, no, stavo pensando, aveva messo un po' di fieno in cascina, quantomeno oggi un po' meno indolore questa prestazione. Però io il caso di Leonardo Finmeccanica, Andrea, lo affronto dopo con Celestina Dominelli. Sì. Quindi ti chiedo di andare agli altri casi di Milano, di questa Milano che perde sul finale lo 0,36%, però qualche trimestrale che è piaciuta agli investitori c'è stata. Beh, diciamo c'è stata quella, sicuramente quella di Ubi, anche se poi il titolo si è un po' spento durante il corso della giornata, e c'è stata anche quella di Unipolsai, che ha guadagnato lo 0,4%, è stata migliore delle attese. In più a questa si è aggiunta l'indicazione arrivata durante la presentazione agli analisti dell'amministratore delegato Carlo Cimbri di quello che sarà l'ammontare dell'incasso di Unipolsai dalla fine della partnership, dell'alleanza con il banco BPM nella distribuzione delle polizze assicurative. È una cifra che indicativamente era già emersa un po' dall'indiscrezione, che comunque è stata confermata, 585 milioni di euro per porre fine a questo matrimonio che durerà solo fino al 31 dicembre di quest'anno, perché poi dopo Unipol ha già la sua strada, diciamo, insieme alla Popolare dell'Emilia Romagna, mentre il banco BPM ha scelto Cattolica Assicurazioni per andare avanti nella distribuzione delle polizze assicurative. Senti, stai parlando di polizze, di assicurazioni, adesso non avevamo così previsto di parlare di questo argomento, ma oggi ci sono stati risultati anche di un colosso mondiale del settore assicurativo di Allianz, che nel terzo trimestre di quest'anno ha annunciato un risultato netto di oltre 1,5 miliardi di euro, che è in calo rispetto ad un anno fa di circa il 17%. Sui conti pesano le catastrofi naturali a ripetizione che si sono registrate in questo periodo. Ha avuto qualche impatto sul trimestrale? Sul titolo per la verità no, il titolo ha perso lo 0,2% e in generale anche il settore assicurativo europeo è stato peraltro uno dei pochi che oggi si è difeso, infatti l'indice del comparto ha chiuso a più 0,04%. In Italia hanno fatto bene, oltre a Unipolsai che abbiamo già ricordato, anche le assicurazioni generali, quindi il settore si è difeso in una seduta complessivamente negativa non solo per Milano ma per tutta l'Europa, tant'è vero che ha infilato un po', è stato un po' la settimana peggiore per le borse europee degli ultimi tre mesi. 10 secondi solo per raccontarci la giornata al Cardiopalma di Telecom Italia, perché io, se non ho visto male stamattina, se non ero ubriaca, in apertura il titolo perdeva il 7-8%, poi non solo ha recuperato tutto, dopo la trimestrale anche in questo caso, è arrivata a guadagnare 1,5 punti per poi riperderlo tutto sul finale. Sì, è corretto. Inizialmente per Telecom Italia si pensava anche di un errore nell'emissione di un ordine. Ti dirò che è quello che ho pensato pure io, perché ho visto... Esatto, cosa che per la verità non sembra essere confermata. La stranezza era dovuta al fatto che i conti di Telecom, per quanto riguarda i numeri fondamentali, ricavi e margine operativo lordo, erano sostanzialmente quelli attesi dagli analisti e quindi andavano a rafforzare delle indicazioni positive. La voce, diciamo, in attesa era un calo dell'utile netto consistente nel trimestre da 1,4 miliardi a 1 miliardo, ma che conteneva delle componenti, delle voci straordinarie che pertanto non giustificavano, diciamo, un calo di questo tipo, tant'è vero che il titolo poi, dopo essere stato anche per un certo momento fermo e sospeso dall'attività di negoziazione, è tornato in negoziazione e ha vissuto una mattinata tutto sommato tranquilla, per poi salire addirittura nel corso della presentazione. Infatti, quando il nuovo amministratore delegato Amos Genish forniva delle indicazioni su quella che è l'andamento organico, quindi dell'attività al di là delle voci straordinarie. Tuttavia sono arrivate, diciamo così, delle indicazioni, o meglio delle non indicazioni su quello che può essere il futuro della rete, su cui tanto si è discusso. Genish ha detto resterà di proprietà di Telecom, così come è arrivata un'indicazione sul fatto che non verrà venduto, non ci saranno asset in vendita, in particolare dell'attività brasiliana. Ma questo, diciamo, la reazione del titolo, che poi ha perso quasi il 2% sul finale, è un po' da annoverare in un certo nervosismo che il mercato ha mostrato nelle ultime sedute sulle trimestrali, laddove non c'erano delle notizie nuove o delle sorprese, ma c'erano o delle conferme o delle notizie lievemente negative. Grazie Andrea. Il traffico velocemente. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, oggi ho vinto la palma dei collegamenti più veloci del West, ne faccio altri due. Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Celestina, ti tocca il compito di raccontarci di questa giornata da dimenticare per Alessandro Profumo, per appunto Leonardo Finmeccanica. Meno 21,55% in borsa. Allora, il gruppo ha presentato i suoi conti, vanno molto male. Gli elicotteri, ci racconti in 2 minuti che cosa è successo? Che cos'hanno di così brutto, ecco, questi dati? Ma diciamo che sostanzialmente il gruppo ha pagato un effetto sorpresa, cioè il mercato non si attendeva in questa fase dell'anno, siamo quasi in chiusura, la decisione che ieri è stata annunciata dall'amministratore delegato Alessandro Profumo, e cioè quello di tagliare, di ridurre al ribasso, di rivedere al ribasso le guidance del gruppo sul 2017 su due tasselli che sono fondamentali per valutare, diciamo, come va un'azienda. Da un lato i ricavi, che sono stati appunto ridotti, e poi l'altro dato è quello dell'EBITDA, che è un indicatore di efficienza che serve a misurare la redditività margini, dell'azienda. Sì. Esatto. Qual è il problema? Il problema sono appunto gli elicotteri, che ricordiamo essere uno delle tre gambe, come l'ha chiamata anche ieri l'amministratore delegato in questo breve colloquio con noi, cioè uno dei tre pilastri del business dell'azienda. Allora, il settore nel complesso sconta una fase particolarmente difficile anche per via della crisi, e quindi sostanzialmente la decisione comunicata ieri è appunto, come dire, la traduzione del fatto che questo settore attraversa un momento molto complicato. Quindi c'è da un lato un tema di congiuntura particolarmente difficile per il mercato, quindi per Leonardo ma anche per gli altri gruppi, c'è poi un tema legato a quelli che sono appunto i programmi e i contratti che il gruppo ha assunto. Come poi ha spiegato ieri Profumo nella conference call con gli analisti, il tema nasce soprattutto da alcune difficoltà legate in particolare ad uno dei prodotti del settore, insomma uno dei prodotti del gruppo, che è la V139, quindi problemi legati appunto ai processi produttivi, ai ritardi, perché sostanzialmente appunto questi elicotteri vengono generalmente venduti, il grosso diciamo viene fatto con questi big spender, questi grandi clienti che comprano gli elicotteri, li affittano poi ad altri operatori, e quindi ci sono stati dei problemi, perché spesso questi ordini vengono poi modificati in corso e quindi costringono un gruppo come Leonardo, ma comunque chi fa questo tipo di business, a rivedere in corsa il prodotto, insomma, che sta appunto realizzando l'allestimento di questo prodotto, e questo determina, certo, ovviamente dei problemi che si riverberano poi sui conti, e quindi la decisione arriva sostanzialmente da questo aspetto qui. Vero è che nei conti che ieri appunto venivano presentati c'è sicuramente uno spiraglio, sembrerebbe esserci uno spiraglio positivo guardando al futuro, ma è chiaro che in questo momento il mercato, come dire, ha punito il gruppo per quello che è appunto, diciamo, la decisione comunicata ieri, e per quella che è la difficoltà che è emersa appunto dai conti e dalla revisione dei target. E che punizione appunto anche sonora, anche se ci spiegava Andrea Fontana che tutto sommato il gruppo aveva corso veramente tanto, ma in una giornata bruciare tutto quello che si è guadagnato in 8-9 mesi, veramente penso che non sia proprio in questo momento una circostanza che faccia stare sereno un amministratore delegato. Grazie Celestina, presto. Grazie a voi. Gli ultimi due minuti di tempo con Matteo Trotta, vice direttore dell'ufficio studi di Consultic. Buonasera Matteo. Buonasera a tutti. Per commentare invece un po' il quadro obbligazionario che è maturato nelle ultime ore, perché agli ascoltatori piace sempre avere anche una fotografia rispetto ad uno dei loro investimenti preferiti, anche se non più di tanto ultimamente, perché come sapete i BTP con le cedole così risicate che riconoscono, in realtà anche l'italiano che privilegiava l'investimento nel titolo di Stato italiano adesso lo guarda con un po' più di sospetto. Oggi 5 miliardi e mezzo di euro piazzati dal Tesoro. Il bot ad un anno era la scadenza appunto da piazzare, Matteo, un rendimento che è sceso ancora e sta sfiorando lo 0,4% in negativo, e ancora ci si chiede chi compra a questi livelli. Per questione di tesoreria continuano a farlo le banche, non certo un investitore privato. Certo, ci mancherebbe. 0,40 è il minimo storico registrato da un'asta bot a un anno. Tuttavia fa specie vedere questo record negativo, alla fine del quantitative easing da parte della BCE. Probabilmente uno se lo sarebbe aspettato qualche mese fa, invece all'indomani delle parole di Draghi, che riduce sostanzialmente il quantitative easing a partire da gennaio. A 30 miliardi al mese, ricordiamo. A 30 miliardi al mese, l'Italia registra il suo record negativo su un'asta bot. Bisogna ricordare un paio di cose, ovvero che all'indomani delle parole di Draghi è arrivata la promozione da parte di Standard & Poor's sul debito italiano, promuovendolo da BBB- a BBB, e questo è certamente un segnale positivo per il debito italiano. Secondo, che il Draghi non ha messo definitivamente la parola fine allo stimolo monetario, ha indicato una data così orientativa per settembre dell'anno prossimo, anche se ha fatto intendere che tutta questa programmazione potrebbe essere rivista nel caso in cui fosse necessario rimettere mano al portafoglio. Matteo, lunedì parte la nuova missione del BTP Italia. Oggi è stato reso noto il tasso minimo della cedola che verrà distribuita, lo 0,25%. Abbiamo 40 secondi di tempo. Cosa ci dice questa indicazione? Beh, 0,25% alla luce della curva dei rendimenti dello Stato italiano sembrerà strano, ma non è così male. Così male. Stiamo parlando di una durata di 6 anni. Oggi un BTP a 6 anni rende tra lo 0,8 e lo 0,9%, quindi il BTP Italia offre un rendimento minimo dello 0,25%. E protezione dall'inflazione, ricordiamo. E protezione dall'inflazione. L'inflazione ultimamente si è aggirata, sì, bassa, però sopra l'1% nell'ultimo anno, per cui anche in ragione dell'inflazione e anche della minor volatilità di questi titoli, comunque sia, rispetto a quello che offre la curva dei rendimenti italiano, non è male. Grazie a Matteo Trotta. Mi scuso per la velocità, ma abbiamo terminato. Segnalo che lunedì di questo argomento ci occuperemo a Due di Denari con Mauro Meazza e sarà nostra ospite Maria Cannata, direttore generale del Tesoro italiano. Per il resto io vi saluto, grazie per aver avuto la pazienza di seguirmi alla conduzione di Focus Economia. Lunedì ritorna tutto regolare. Buon weekend. Radio 24. Libera la voglia di fare.